30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Milano sembra una città africana, girando per le strade non sembra di essere in Europa, lo dice il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al termine di un comizio nel capoluogo lombardo lo scorso 4 giugno. Il giorno successivo replica il presidente della provincia, Penati: Milano non è Kampala, capitale del Burundi, anzi, Milan è un gran Milan. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca, il programma che si prende il tempo di riflettere su una delle tante notizie che corrono veloci nel nostro panorama informativo. L'ospite di oggi è un ospite che torna qui a 30 minuti, è Marco Alfieri, collega del Sole 24 Ore, autore di un'indagine fresca fresca sulla città di Milano. Buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, a parte il fatto che la capitale dell'Uganda è Kampala e che in Burundi c'è Bujumbura, ma insomma non ha una grande importanza, ciò che è chiaro è che il concetto, l'associazione di Milano africana non è un complimento per il premier, ma nemmeno per il presidente della provincia di centrosinistra. Insomma, l'Africa come archetipo negativo, nera, brutta, ma questo purtroppo non è una novità. Eppure, partendo proprio da questo spunto, Io direi, e lo chiedo a Marco Alfieri, insomma, l'Africa ha avuto un ruolo anche importante nella conquista, diciamo, questa espressione un po' pomposa, di Expo 2015, o no? Assolutamente sì, anzi, sono stati i paesi africani, sono stati i grandi elettori di Milano nella sfida vinta contro la Turca Smirne. Non a caso i paesi ricchi, il blocco NATO, invece pendeva per Smirne. E quindi, anzi, questa fu anche, diciamo così, la trovata strategica, intelligente e poi efficace nella vittoria del sindaco Moratti, del presidente, allora presidente Prodi, del ministro degli esteri D'Alema, di Formigoni, del presidente della provincia Penati, e cioè diventare una sorta di collettore di voti, tra virgolette, terzomondisti, no? Quindi offrire, mi ricordo la frase del sindaco Moratti, non un Expo per noi ma un Expo per tutti, quindi cooperazione allo sviluppo e integrazione dentro un progetto milanese, però di un mondo più largo, che era poi, diciamo, il mondo africano in qualche modo. Insomma, l'Africa ha contribuito naturalmente in un ambito di accordi, scambi, attività di lobbying che ha coinvolto centinaia, oltre 150 paesi, ma oggi quello che vorrei fare con te è affrontare un po' quello che è il tema ricorrente, che è il tema poi del tuo libro, cioè il declino presunto o reale di questa città, di una città che appunto non è solamente un luogo geografico, ma è anche, o almeno è stato, un luogo dello spirito, un luogo delle possibilità. Ecco, è un luogo che ora viene, direi non da oggi, messo pesantemente in discussione. Expo 2015. Restiamo su questo punto. Il 31 marzo del 2008, quindi circa 13 mesi fa, Milano vince in una giornata parigina di grande emozione. Prima vincono i turchi, no, non è vero. Vittoria per Milano. Milano dichiara, e lo dichiara veramente coinvolgendo l'intero arco costituzionale, che è una vittoria del sistema, un termine, un'espressione che a mio avviso viene troppo utilizzato, ma in quel caso era vero. Assolutamente sì, a me ha colpito una frase del sindaco Moratti che disse proprio la sera della vittoria, quando disse, anche in maniera poi un po' enfatica, ma appunto, come giustamente dici tu, in quel caso ci stava, e cioè dice: per una volta mi sento orgoglioso di essere italiana. E proprio significava questo, cioè un gioco di squadra straordinario, tra l'altro il governo già uscente ma già di fatto licenziato, e nonostante questo il ministro D'Alema, il presidente Prodi, fino al weekend precedente, fino a tarda sera, a fare lobbying, a controllare, fare il recall sui voti di alcuni paesi. E un gioco di squadra riconosciuto da tutti, e come dire, dopo quel giorno però inizia una lenta e poi sempre più veloce discesa verso gli inferi. Insomma, il gioco di squadra funziona, ma già il 7 maggio 2008, questa data la prendo tra l'altro come molte altre dal libro appunto che hai pubblicato da poco, il titolo è La peste di Milano, poi ci torniamo un attimo perché, come dire, mi ha un po' colpito francamente da milanese, ma dicevamo il 7 maggio già la prima crepa, che succede? Sì, la prima crepa, perché in un incontro a Palazzo Chigi il sindaco Moratti incontra i cronisti appena fuori nel cortile e dice: tutto fatto, è tutto deciso, io sarò commissario straordinario dell'Expo Paolo Glisenti, che è la persona che poi si era un po' inventata ed era segretario del comitato che ha organizzato l'Expo, sarà l'amministratore delegato della società di gestione che appunto gestirà il grande evento, appalti, il grande budget che verrà messo a disposizione, i famosi 14 miliardi di euro. E soprattutto non sarà l'amministratore delegato, ma sarà l'amministratore unico, no? Come se fosse una piccola società, un piccolo consorzio. E questo ovviamente scatenò le gelosie, le ripiche, anche le polemiche di chi aveva partecipato ovviamente alla grande avventura d'Expo e che giustamente probabilmente vuole avere un posto a tavola degno di rango. Ecco, una citazione anche del milanesissimo spettacolo di Johnny Dorelli, quindi ad avere un posto a tavola. Adesso non passiamo tutte le date, ce ne sono molte, facciamo un balzo. Nell'estate, mentre i milanesi, insomma, chi più chi meno va in vacanza, succedono molte cose, ma è ottobre che la situazione sembra addirittura precipitare. Il 22 ottobre la BIE, quindi, che a marzo ha premiato Milano, ora addirittura la minaccia, dice: se non vi muovete perdete l'Expo. Assolutamente sì, è il famoso early warning del BIE, cioè appunto il comitato che organizza gli Expo Universali. Nel frattempo sono passati 6 mesi, c'è stata una lunga estate calda in cui in una notte, diciamo, di lunghi coltelli ai primi di agosto, dopo forse, se non ricordo male, l'ultimo Consiglio dei Ministri prima delle vacanze, in cui di fatto il ministro Tremonti fa capire al sindaco Moratti che anzitutto Paolo Glisenti non è troppo gradito nelle stanze romane, nonostante che lui sia romano, e poi che ci vuole una condivisione della gestione dell'Expo e che soprattutto il Ministero del Tesoro, visto che ci mette i soldi, vuole stare a capotavola. Ragionevole. È assolutamente ragionevole. E quindi si protrae, si riscrive sostanzialmente il decreto che istituisce la società di gestione, ma si arriva a ottobre che ancora si litiga e quindi appunto l'early warning. Il 22. Il 23 il Presidente del Consiglio provvede. Firma, prima di partire per la Cina, un viaggio istituzionale, firma. E sembrerebbe tutto a posto finalmente, invece, come dire, è solo una tappa di una telenovela infinita. Insomma, vogliamo tenere un po' dei nostri minuti anche per altri temi, ma basterà ricordare che il 9 aprile del 2009, quindi 372 giorni dopo la vittoria, si insedia infine il CDA, che non è propriamente uguale a quello descritto dal sindaco di Milano Moratti un anno prima. Assolutamente, è un CDA tradizionale, con un consiglio di amministrazione con un amministratore delegato e quindi non più un amministratore unico, e quindi una società che definisce una governance allargata e come tale condivisa nelle grandi scelte. E però nel frattempo, per arrivare a quella decisione che sembrava quella di più buonsenso dopo la vittoria, sono passati 13-14 mesi. Milano sono tutto tu. Insomma, credo che chi ha più di 25-30 anni questa canzone la ricorda bene. Forti, siamo nel 79, una Milano completamente diversa, un'Italia completamente diversa, la Milano delle piazze, degli scontri, delle tensioni, delle violenze anche, e di una, come dire, di un confronto tra Milano e Roma che addirittura trova una sorta di inno. Vincenzo, io ti ammazzerò. Ecco. Credo che in molti la ricordiate. Bene, poi tutto questo si assopisce, insomma, siamo diventati tutti più italiani, meno campanilisti. In realtà la sensazione è che proprio adesso ci siano state tante difficoltà di comunicazione tra i due poli, o di fatto tali, della penisola. Assolutamente sì. Tra l'altro colpisce che questo avviene nel momento in cui a Roma, al governo nazionale, c'è probabilmente il governo più nordista della storia repubblicana. È un milanese. Con un imprenditore nato all'isola, al quartiere Isola, e trapiantato poi in Brianza, ma insomma milanesissimo per cultura, per gusti, per approccio anche alla vita. E nel momento in cui c'è questo governo milanese o comunque nordista a Roma, e quel che avviene, a mio parere, è una sorta di cono rovesciato, cioè Milano non è più in grado o fa sempre più fatica ad offrire, diciamo così, un modello emulativo al resto del paese, ma viene in qualche modo trascinata, sprofondata e romanizzata. Ecco, negli ultimi anni, dal 93 in poi, vado a memoria, ma sindaco Lega, poi per 3 volte sono sindaci appunto espressione di Casa delle Libertà, PDL. Eppure proprio il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, quindi, come dicevi, originario addirittura dell'isola, storico quartiere di Milano, sembra dialogare poco con gli esponenti. Perché? Ma io credo che ci sia una duplice lettura. La prima è che probabilmente quando tu sai di avere un grandissimo consenso in casa tua tendi un po' a darlo per scontato e quindi, come dire, io ce l'ho in saccoccia, ce l'ho nel taschino e quindi posso anche permettermi di trascurarlo un pochino. Dall'altra parte invece c'è una radice che risale all'inizio anche dell'attività imprenditoriale di Berlusconi, cioè un grande magnate televisivo, quindi che ha a che fare con un'attività regolata dal legislatore, e quindi lui in fondo anche all'inizio Milano l'ha sempre, tra virgolette, gestita da Roma, cioè ha sempre cercato prima un accordo o comunque una relazione, una lobbying con il governo nazionale. Il grande rapporto con Bettino Craxi nasce anche da qui, e cioè non tanto con il Craxi milanese, ma quanto col Craxi presidente del Consiglio dall'83 all'87. E quindi questo fa sì che oggi, quando lui è assolutamente egemone, fa sì che appunto Milano venga un po' romanizzata, passando da Roma, cioè passando dalla premiership che lui esercita sul paese, e quindi una presa anche nei salotti milanesi, che in realtà poi l'hanno sempre un po' rifiutato, soprattutto all'inizio della sua carriera. L'hanno anche snobbato. Anche assolutamente con snobismo. In realtà lui oggi li conquista, li seduce, però passando da Roma, e non più, quindi con un processo inverso. Ecco, naturalmente in questa parte della storia, che è sicuramente una parte importante, però come dire, c'è il rischio quasi di giustificare Milano, c'è il rischio di dire beh, insomma, Roma ancora una volta gestisce, anche se attraverso un milanese dell'isola, certi meccanismi e noi subiamo, e questo forse è un po' dei rischi di noi milanesi, lo insisto su questo punto, Bauscia da una parte, a volte anche un po' troppo portati a giustificarci. 30 minuti in cronaca. Rieccoci ancora qui oggi a 30 minuti in cronaca a parlare di Milano, a parlare, diciamo, di gloria e decadenza presunta del capoluogo lombardo. Lo facciamo con Marco Alfieri, lo ricordo, ha pubblicato da poco La peste di Milano, anzi forse è il caso anche di affrontare proprio il tema del titolo. Io prima ti ho detto, Marco, mi sembra un po' forte, che cos'è La peste di Milano? Ma La peste di Milano è un qualcosa, appunto, ovviamente rievoca la peste di manzoniana memoria, è un qualcosa, un virus che si insinua in un organismo che è stato sano fino a poco tempo fa e che continua a produrre cose interessanti, no? Non è che la peste colpisce e stecchisce una persona, un organismo nel giro di 2 minuti, e che però piano piano lo corrode, lo influenza, lo fagocita. E ovviamente anche con una sorta di convenzione giornalistica, il titolo ovviamente è un po' sparato, però appunto l'immagine che io ho della città è proprio questa, cioè di un organismo sano che da qualche anno, io convenzionalmente l'ho ritrodato sostanzialmente alla cesura di Tangentopoli, inizia appunto a degradarsi e a morsicare, a mordere e a tarlare appunto l'organismo, che in questo caso è la città di Milano. Ecco, ma chi è o cos'è dunque la peste? Chi è la peste? Sono tante cose successe in questi anni. Io appunto attacco il libro con i due ultimi, diciamo così, paradigmi, gli ultimi epifenomeni, che sono appunto l'Expo di Milano e l'incapacità di far decollare Malpensa, che sono appunto la metafora, a mio avviso, di quelli che potremmo chiamare gli untori. Così faccio anche la pubblicità a un altro libro bellissimo di Corrado Staiano, che è appena uscito. E che gli untori chi sono? Sono probabilmente la classe dirigente di Milano, che è sempre più incapace di fare rete, di fare sistema, e forse anche viziata da quella caratteristica del piangersi addosso che tu citavi prima, da un lato Bauscia e dall'altra parte però incapacità anche di fare lobbying probabilmente rispetto a Roma, quindi arrendersi un po' all'avanzata romana. E quindi la peste si aggancia poi anche al tema degli untori, e quindi in questo caso forse io dovessi trovare chi è l'uomo che ha iniziato a far circolare questo virus, probabilmente è la classe dirigente di Milano. E me la giro per le strade della mia città così, le cuffie mi spingono un beat e vivo dentro un videoclip, eh sì. Gli occhi mi fanno da cineprese, inquadrano i palazzi al buio decorati da finestre con la luce accesa. C'è sempre chi arriva e sempre. Ecco, anche questa è Milano, una Milano che cambia, una Milano che non è d'accordo anche con Marco Alfieri. Qui davanti ho una serie di piccola rassegna stampa. C'è chi dice, ne cito uno per tutti, come il presidente della Dompè Farmaceutici, Sergio Dompè, che dice no, non è così. Milano fondamentalmente sta cambiando, dice, e sicuramente come dire, il cambiamento è un elemento fondamentale di qualsiasi riflessione. Così da un lato riprendiamo l'affermazione di Silvio Berlusconi quando parla: questa è una città solamente africana. Peraltro forse avrebbe potuto dire filippina o altre cose, perché insomma la comunità africana è abbastanza, relativamente, sicuramente non egemone, ma voglio dire, di una città che sta cambiando pelle, e questo è sicuramente un segno di vitalità. Assolutamente, cioè, il moto incessante è sempre stata una caratteristica di Milano e continua tuttora. Il tema vero è che non sono per forza in contraddizione le due, diciamo, le due vulgate. Cioè, chi dice che... Io poi, tra l'altro, non penso neanche che Milano sia in declino. In realtà è una cosa un po' diversa, appunto, come provo a spiegare nel libro. Il problema è che è una città che cambia, però, probabilmente, in maniera quasi anarchica, in maniera spontanea, ma nel senso anche negativo del termine. Perché non è governata? Cioè, perché non c'è una classe dirigente che è in grado di mettere a fattor vincente tutte queste schegge di dinamismo che pure avvengono. Io nell'ultimo capitolo parlo della cultura, per esempio a Milano succedono cose bellissime, ci sono vernici tutti i giorni, ci sono eccellenze internazionali nel campo dell'audiovisivo, nel campo del cinema sperimentale, però diciamo nella narrazione ufficiale non entrano mai queste cose. Anche la classe dirigente resta appiccicata all'etichetta della Scala, che è una cosa straordinaria e che però rischia anche un po' di diventare un alibi e una giustificazione per il loro potere. Ecco, a proposito di rimanere appiccicata, sicuramente la classe dirigente è rimasta appiccicata alla questione di Malpensa, e lo è rimasto anche in maniera clamorosa, perché schiantata, esatto, sa più una cosa estiva e di corsa in autostrada. Ma Malpensa è una storia lunga oltre 20 anni, e mi riferisco solamente alla nuova Malpensa. Che cosa è accaduto? So che non è una domanda, ma come dire, aiutaci a fare una sintesi, a che punto siamo e come ci siamo arrivati a questo caos? Ma diciamo Malpensa 2000, la grande Malpensa, come la che si voglia chiamare, che nasce negli anni 80. Sì, diciamo pensata a metà anni 80, addirittura appunto dall'IRI dell'allora presidente Romano Prodi, da un'intuizione assolutamente sensata, cioè dare alla parte più sviluppata del paese, che era abituata a bypassare la Pianura Padana e andare a volare da Francoforte, da Londra, da Parigi, dargli un hub che potesse collegare appunto la parte più dinamica alle grandi rotte intercontinentali. Quindi un'intuizione giusta che già ci mette 13 anni a nascere, perché appunto Malpensa 2000 viene inaugurata nel 98. E nasce però probabilmente già vecchia. Faccio un esempio: non si calcola del futuro sviluppo dell'alta velocità, che già in quegli anni iniziava a costruirsi e a immaginarsi, e quindi abbiamo per esempio il paradosso di un'alta velocità che passa a 15 km di distanza dal nuovo aeroporto, cioè praticamente vicino alla nuova fiera di Ropero. Questo per dire, una grande operazione, una grande infrastruttura necessaria al paese, che però resta dopo tanti anni ancora mal collegata, con un'incapacità di sviluppare la sua potenza di fuoco, perché in questi anni qua non è stato tarato l'aeroporto di Linate, cioè il City Airport, sulla nuova dimensione di Malpensa, come avvenne per esempio con Orly e il periodo di Charles de Gaulle, dove quando si lanciò il Charles de Gaulle Orly venne molto ridimensionato. Insomma, ancora una volta fare squadra che abbiamo citato all'inizio, quindi un'incapacità, esattamente. Poi certamente c'è la colpa romana di Alitalia, che non ha trasferito la base di armamento, però ci sono anche molte responsabilità della classe dirigente locale. Ecco, oggi, visto che siamo ormai quasi alla conclusione, dal cronista che va in giro, vede questi grandi cantieri, grandi progetti e ce li racconta, qual è a tuo avviso l'elemento di forza, di grande speranza di questa città? Ma l'elemento di forza è che poi dà probabilmente... fornisce anche la passione a gente come me e come tanti altri nel raccontare queste cose, che poi alla fine il libro è anche soprattutto un atto d'amore verso una città. È che Milano comunque non si ferma mai. Cioè Milano, anche nel capitolo sui cantieri, per agganciarmi a quello che tu dicevi, Milano dopo un ventennio di assoluto immobilismo sono tornate a spuntare le gru, e questo è un fattore positivo. Ci sono alcuni progetti di per sé, presi singolarmente, di assoluto pregio. Anche qui cosa manca? Manca una vocazione pubblica, una regia pubblica nel costruire nuove funzioni per la città, cioè nell'orientare, accompagnare questi grandi progetti dentro un disegno della città del futuro. Molte volte l'idea che prevale, a mio avviso, è quella un po' di riempire i vuoti, cioè c'è una grande area dismessa da riconvertire, facciamo un qualcosa di legato al residenziale, al commerciale, ma senza una vocazione che tenga insieme l'interesse della città, e questo è quello che manca. Ecco, le gru crescono, in fondo concludiamo su questo punto. Tu nel libro racconti, parli anche di operazione Cerberus, di cosche in guanti di velluto, insomma, l'allarme deve rimanere alto. Ora non abbiamo tempo per sviscerare questi elementi, ma lo invito gli ascoltatori a farlo leggendo questo ed altri libri. Leggere fa sempre un gran bene. Poi potete anche scrivere, criticare e, come dire, sollevare i vostri dubbi attraverso 30minuti@radio24.it, come dire, ci prenderemo la nostra parte e inoltreremo le mail a Marco Alfieri, che ringrazio per essere stato nostro ospite. Sicuramente Milano è, nella storia di questo nostro paese, troppo importante per permetterci di non occuparsene, sei d'accordo, credo. Senza Milano né si governa il paese, né si può dare un futuro a questo paese, assolutamente. Grazie a tutti voi, l'appuntamento come sempre per sabato prossimo, e radio24.it per sentire e risentire questa e tutte le altre trasmissioni di Radio 24. Non mi rimane che ringraziare in regia questa sera Rudy Cantadori e di lasciarvi ai programmi di Radio 24.